Avete mai visitato Urbino? Urbino è stupenda, un consiglio assoluto per un weekend, per una gita, e abbinare una grandissima esposizione ne è il motivo ideale. Presentata oggi in mostra, sarà per tutta l'estate 2024 e anche oltre, dedicata a un protagonista proprio dalla città di Urbino. L'importanza di questa città, una corte veramente molto molto colta che vedeva grandi nomi, tra cui per l'arte Federico Barocci. Per quanto riguarda l'arte, facendo un piccolo passo indietro, la grande arte, la grande maniera di Raffaello Sanzio, che per quanto riguarda il protagonista di oggi in mostra, il Barocci, detto il Fiori, e poi capiremo anche il perché, grazie a Luigi Gallo che sarà la voce che ci accompagnerà in questa piccola ma grande lezione di storia dell'arte, direi, almeno parere personale, che Barocci ne è direttamente un erede, e non solo per territorialità, molto importante, anzi unico per quanto riguarda lo sguardo oltre e in avanti. La natura, la capacità estetica, l'identificarsi, il territorio, la bellezza, il messaggio dell'arte nel periodo che poi sarà successivo alla Controriforma, di cui magari parleremo. Intanto iniziamo la nostra conversazione con Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche e co-curatore dell'esposizione. Usciamo dalla nostra regione, ma non di tanto, siamo nella splendida Urbino, nelle Marche, e sono in compagnia di Luigi Gallo, al quale do il buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, salve, salve a tutti. Conosceremo un artista, un grande artista, mi permetto di dire, che è stato innovatore, nello stesso tempo ha dato una continuità, un'ispirazione che ha portato a un periodo ben preciso un aspetto di un tutti i tempi. Federico Barocci. Direttore, iniziamo facendo un identikit di questa figura. Allora, Federico Barocci è sicuramente il grande interprete della pittura italiana della seconda metà del Cinquecento. Lui era nato a Urbino e si è formato, diciamo, in quella che è certamente la corte più raffinata della seconda metà del Cinquecento, una corte che in cui viveva l'eredità di Raffaello, di Bramante, della grande tradizione della Urbino rinascimentale, e si forma confrontandosi con gli straordinari dipinti della collezione dei Della Rovere all'epoca Urbino, e poi trasferiti agli Uffizi dopo la fine della famiglia, una collezione che contava appunto i più grandi artisti del 4 e del 500, fra i quali sicuramente Tiziano e Raffaello stesso. Quindi è un artista che nasce e cresce con il grande Rinascimento e che porta questo linguaggio, rinnovandolo radicalmente, fino al primo decennio del Seicento. Quindi in qualche modo è colui che, partendo da Raffaello, inventerà e sarà l'interprete di un naturalismo radicale alternativo a quello di Caravaggio, ma altrettanto sentito e rivoluzionario. Con quali caratteristiche farà questo passaggio? Ma sicuramente Barocci è influenzato nella sua visione da un pensiero che si apparenta al pensiero della Chiesa, diciamo, post riforma protestante. Quindi lui ha un'idea del sacro e che quindi il divino si rivela nella natura intorno a noi, ed è proprio questa ricerca di una natura sensibile, di una natura che si rivela nel paesaggio, negli animali, nelle figure che popolano i suoi dipinti, dipinti in cui tutto sembra essere spontaneo, quasi l'illustrazione di una quotidianità in questa Urbino dove lui decide di vivere e che è sempre presente all'interno dei suoi dipinti, tant'è vero che rappresenterà in ognuna delle sue composizioni il profilo del Palazzo Ducale, segno dinastico sicuramente, ma anche segno di appartenenza alla sua città. Thank you. Johnny Griffin, The Little Giant, è il nostro Federico Barocci, proprio per questa capacità di rinnovare di passaggio una maniera legata al bop per farlo diventare con un'estetica personale originale da radice assolutamente manieristica a qualcosa che dà uno sguardo al moderno, che dà uno sguardo particolarmente avanzato al suono. Controriforma, quello che sarà un'attenzione al naturalismo, Federico Barocci detto il Fiori, anche per questo, lo sguardo che dà alla natura, ma che dà soprattutto a una particolarità della natura che scopriremo con un dipinto, la Madonna della Gatta, che per me è un capolavoro assoluto, è una mostra che non perderò nell'estate 2024, poi tra l'altro tornare ad Urbino per me è sempre una grande emozione, non è affatto periferica per l'epoca, passaggi storici ci la porteranno poi ad esserlo, però nel periodo è una corte veramente molto colta, da Raffaello Sanzio, come avete ascoltato, grazie a Luigi Gallo con il Tiziano, a seguire tanti altri artisti, è stato citato il Bramante, e anche in ambito letterario avremo sorprese per questo centro, sì, non esito a definirlo un centro dell'arte e della cultura, Chambers on bass, prima abbiamo ascoltato al piano Mr. Sonny Clark. Aspettiamo il rientro e come riprende il tema Johnny Griffin, poi procediamo, ok? Johnny Griffin, tra l'altro l'attinenza storica, seppur di secoli, 1957, The Congregation, il lavoro che stiamo ascoltando, per me il disco più bello di Johnny Griffin, 1950, il passaggio agli anni 60, questo disco inciso per Blue Note alla fine degli anni 50, anche di passaggio da un bop a quello che sarà uno sguardo poi moderno all'interno dell'hard bop. Nella seconda parte di conversazione ho voluto portare l'attenzione a un aspetto molto particolare di un'opera d'arte immensa che è la Madonna della Gatta, già la presenza del felino che in maniera materna sta allattando i suoi cuccioli in una presenza sacra e molto singolare. Beh, per averne un parallelismo e per scoprirlo in maniera ancora più dettagliata, ascoltiamo appunto la voce di Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche. Particolarità che troviamo anche in un lavoro supremo che è la Madonna della Gatta, lavoro in cui oltre ad avere queste caratteristiche troviamo, a proposito di aspetti diversi, la presenza di questo grazioso felino che tra l'altro non era esattamente un'immagine legata alla religione, se vogliamo, è stato anche condannato, ma per quanto riguarda tutto ciò c'è un abbinamento di maternità, di dolcezza, ci può dire qualcosa di più? Assolutamente, anzi grazie per questa domanda, perché tocca veramente da vicino anche l'amore che ho per questo pittore. L'idea di Barocci è quella di raccontare, diciamo, come la sacralità, questa divinità che contraddistingue tutta la sua pittura, in realtà si rilevi nell'innocenza, e gli animali a modo loro sono innocenti, privi del peccato. E sono animali, quindi, questi che troviamo nei dipinti di Barocci, che sono spesso anche protagonisti del dipinto. Sono molto spesso gli animali a invitarci con il loro sguardo, quindi sono gli animali che guardano il pubblico e quasi a invitarci all'interno della scena rappresentata. Nella meravigliosa Visitazione, restaurata per la mostra, che arriva dalla chiesa di Santa Maria in Vallicella, la chiesa nuova a Roma, è questo dolcissimo asino che guarda lo spettatore e quasi lo invita a vedere l'abbraccio fra la giovane sposa e la santa, che si incontrano davanti a una porta di Urbino, con il palazzo ducale dietro. E nella semplicità, nella quotidianità di questa scena ritroviamo tutta la forza della pittura di Barocci, un dipinto che sappiamo dalle testimonianze davanti al quale San Filippo Neri entrò in estasi, ad esempio. È proprio questa idea di una pittura dove il quotidiano, la natura rappresentano in qualche modo l'orizzonte primo, vero, di un pittore davvero rivoluzionario. '535, visita di Santa Elisabetta con San Giovanni Battista e San Zaccaria alla Madonna col Bambino e San Giuseppe, detta Madonna della Gatta. Si immaginate riportare questa immagine abbinata alla maternità, che tra l'altro anche in natura la gatta è la madre veramente più attenta, è la madre più attenta all'educazione, è una grande educatrice. Cura totale per i piccoli e poi la loro libertà più assoluta. Un aspetto cromatico e tonale veramente devastante come bellezza, un'estetica nel panneggio precisa e intensa. L'immagine, anche dal punto di vista atmosferico, rende veramente molto emozionante, emotivamente perfetto. L'immagine dei santi che si avvicinano a questa dimora e un San Giuseppe sorridente che apre la tenda dove dimora la Madonna col Bambino con un sorriso, invitando i santi ad entrare mostrare come vengono accolti su un giaciglio dove la Vergine sta portando il bambino e sul telo una gatta che sta allattando i suoi cuccioli. Un'immagine domestica meravigliosa, di grande accoglienza, di sorriso allo stesso tempo, di una spiritualità fortissima. Alle spalle una finestra aperta che lascia vedere chiaramente e intuire il palazzo ducale di Urbino. Questa mostra arriva su Lettura dei Magazine, esattamente dove sia l'inserto di Repubblica Robinson che l'inserto edizione domenicale di Alias del Manifesto ne danno approfondita descrizione. Per quanto riguarda il periferico e la centralità, un articolo interessante su Alias della Domenica riporta similitudini molto particolari di canone inverso in comparazione con altri artisti. Ecco, entrando in mostra, poi ne parleremo, questa e va molto bene così, non è una mostra comparativa, però è giusto che nella critica e in tutte le recensioni ci sia poi, ovviamente, come ho portato anch'io in precedenza, un motivo di comparazione. In mostra non ci sarà e ha quindi una concentrazione su Federico Barocci da Urbino. Quindi, a proposito di questo e di percorsi tra Urbino e Roma, molto interessanti e fondamentali per capire l'arte di Federico Barocci, appunto, ne ho voluto parlare in questo segmento di intervista. Ho appena portato in frequenza una rassegna stampa culturale tratta dai principali inserti che nel weekend sono allegati ai quotidiani e ho letto questo titolo: Barocci ma non barocco. È vero tutto ciò? È molto azzeccato, ecco. Barocci ma non barocco è un titolo molto divertente che infatti mi ha fatto sorridere. Bisogna sempre fare attenzione, diciamolo, quando si fa la storia dell'arte, quando si comunica la storia dell'arte, a pensare che le categorie cronologizzanti sono spesso utili quando bisogna raccontare le cose creando un percorso unitario. Non sempre, non tutto è unitario. E Barocci è sicuramente uno degli artisti più difficili in qualche modo da inserire all'interno di una storia dell'arte così semplice e continuativa. È il grande erede di Raffaello che torna, le cui forme tornano all'interno dei suoi dipinti fino all'ultima sorgente istituzione dell'Eucaristia, in cui riprende addirittura una figura della scuola di Atene. Però è anche vero che la pittura innovativa di Barocci e alcune sue soluzioni, sia formali sia iconografiche, sono invece alla base del ragionamento che alcuni pittori rivoluzionari dell'epoca barocca faranno. Penso naturalmente in primis a Rubens, che si confronta con la pittura di Barocci, con le pale di Barocci alla Chiesa Nuova, e che sicuramente prende dal maestro una nuova modalità di dipingere. Ma anche, forse più nascosto eppure evidente, anche Bernini, il quale lavora realizzando il gruppo di Enea Anchise, che Scipione Borghese vuole mettere proprio davanti al quadro del Barocci, una continuità fra generazioni che fa ricca la storia dell'arte italiana. E mi viene sempre da pensare, guardando ad esempio la bellissima Beata Michelina dai Musei Vaticani, dalla Pinacoteca Vaticana, prestata veramente con grande generosità dalla Pinacoteca Vaticana, che ci ha prestato tutte le opere, per cui veramente generosissime la Pinacoteca, come tutti i musei nazionali e internazionali che hanno collaborato a questa mostra. Ecco, davanti all'estatica Beata Michelina non si può non pensare alle figure realizzate pochi decenni dopo da Bernini, con l'estasi di Santa Teresa d'Avila e la Beata Ludovica Albertoni. Cioè, c'è un ragionamento della naturalezza e quindi anche di una certa capacità di rappresentare una teatralità della natura che sicuramente, seppure radicato nel Cinquecento, porta Barocci anche verso le grandi rivoluzioni dell'arte barocca. Non è barocco e tuttavia per alcune soluzioni lo precede, lo intuisce, ne traccia alcune definizioni, ecco. Questo che stiamo ascoltando è un lavoro che una frangia della Schema Record, la Reward, ha voluto portare all'attenzione di un pubblico attento per la ricerca nel contemporaneo, pur ispirandosi a grandi nomi del jazz. The Griffin Bass è questo titolo che ci dà idea di quello che è stata la musicalità, l'ispirazione di Johnny Griffin. Sarà presente in questo disco, è il 1997, 10 anni più tardi scompare il grande sax tenore, oggi protagonista in mostra in questo disco. Francis Bolland e Kenny Clark ne danno un tributo insieme ad altri musicisti, Milt Jackson ad esempio, a proposito di grandi colonne portanti della musica jazz. Ora abbiamo terminato alle 8:28 minuti questa prima parte in mostra, poi rientreremo per entrare alla Galleria d'Arte delle Marche e conoscere il percorso in mostra dedicato a Federico Barocci. Tutto ciò tra pochissimo, dopo la pubblicità, in mostra sui 103.1 di Radio Città Fujiko, ogni giovedì. Sua carriera iniziale a Roma fu veloce e brillante e ha creato anche molte gelosie intorno a lui. Stiamo parlando del Barocci, oggi protagonista. Ispirato da Raffaello, ammirato da un ormai anziano Michelangelo. L'adesione di Barocci alla Controriforma condizionò la sua lunga e fruttuosa carriera. Un personaggio chiave fu San Filippo Neri, i cui oratori cercavano di ricollegare il regno dello spirito con la vita quotidiana delle persone. E attenzione, una commissione a Barocci da parte di San Filippo Neri, una grande pala d'altare con la Visitazione per la sua chiesa nuova, Santa Maria in Vallicella. Si dice che la contemplazione del dipinto lo portò totalmente in estasi. E per quanto riguarda percorsi, Roma Urbino, Urbino Roma, com'è stato questo dialogo? Allora è un dialogo complesso. Noi sappiamo che Barocci va a Roma certamente due volte, una nella prima giovinezza e poi ci va con una committenza importante, quella appunto di dipingere in Vaticano, quindi una committenza centrale a metà degli anni 60, e a Roma resta due anni, dove ad esempio si trova a lavorare accanto ai fratelli Zuccari, in particolare a Taddeo, con il quale anche lui marchigiano, anche lui artista legato ai Della Rovere, e quindi c'è questa piccola comunità di artisti marchigiani ricercatissimi che dipingono appunto in Vaticano. Tuttavia dopo due anni Barocci accusa un malore che dichiara essere legato a un tentativo di avvelenamento dei pittori romani gelosi della sua pittura, e quindi malato torna Urbino, città che non lascerà più se non per brevi spostamenti che questa mostra ha permesso di ricostruire. Ci fa capire che è stato meno immobile di quello che si pensava, in realtà si aggiorna con dei viaggi sicuramente a Parma, Venezia, forse anche a Roma, ma comunque diciamo stabilisce la sua residenza fissa a Urbino, e questo è un dato estremamente interessante perché è un dato in controcorrente. Quindi Barocci decide di restare a Urbino, che è sicuramente in quegli anni la corte più raffinata d'Europa. Ricordiamoci che alla corte del suo duca, di Francesco I II della Rovere, vive anche Torquato Tasso, quindi insomma non siamo nella corte raffinatissima dell'Italia, e però anche una corte destinata in maniera cosciente ad allontanarsi dalle rotte del grande collezionismo e della storia che vede in quegli anni l'affermarsi degli stati centrali. Quindi questa scelta è una scelta di fugamundi, quindi una scelta poetica estremamente importante, eppure in controcorrente. Quindi è sicuramente la storia di Barocci quella di un canone inverso, questo suo tornare indietro alla sua città d'origine, come in realtà alla ricerca di un'ispirazione profonda, che è l'ispirazione della natura e l'ispirazione appunto di questa corte che riconosce in lui il più grande pittore vivente e forse l'ultimo rappresentante di una scuola storica importante come è stata quella di Urbino. Entriamo in mostra allora, quante opere e con che percorso? Allora, in mostra ci sono più di 80 opere, perché la mostra prevede le sale, diciamo, che noi utilizziamo per le mostre, per le esposizioni temporanee al piano terra, dove sono esposte 76 opere, e procede poi nelle prime due sale del secondo piano, dove sono esposte alcune opere della nostra collezione. Ricordiamo che la collezione della Galleria Nazionale delle Marche è sicuramente la più ricca di opere al mondo di Barocci, e diciamo la scelta che ho voluto operare è quella di permettere ai visitatori anche di scoprire il museo, quindi solo tre opere nostre sono scese in mostra, in modo da stimolare a salire anche al piano. Il percorso della mostra è una mostra monografica pura, ecco, questa va detto subito, ossia non ci sono opere di confronto, c'è solo Barocci, ed è separato per criteri tematici, quindi affronta in maniera conseguente il tema del ritratto, quindi Barocci ritrattista, un tema mai trattato prima in maniera sistematica, che non solo fa scoprire un ritrattista straordinario, forse uno dei migliori dei suoi anni, in cui in alcuni punti si capisce anche la sua capacità di guardare avanti, ci sono delle soluzioni che sembrano veramente Van Dyck o Rubens, ma raccontano anche questa corte di Urbino, mettendo insieme il ritratto straordinario di Francesco Maria II della Rovere con l'armatura, il ritratto celebrativo dinastico del giovane duca bello vincitore della battaglia di Lepanto. Sappiamo che poi la storia prenderà un altro corso e che sarà lo stesso duca a, prima di morire, a firmare la devoluzione del suo ducato allo Stato Pontificio. Ma insomma, in quegli anni è ancora il duca bello e vittorioso, circondato dalla sorella, dagli zii, dagli alti dignitari della corte di Urbino. Ecco, un Urbino che abbiamo voluto raccontare con i volti dei suoi protagonisti. Si procede poi in una sala ovale in cui sono raccolte quattro pale d'altare di quattro momenti storici diversi della vita di Barocci: la giovanile pala con San Simone e Giuda, ancora tutta immersa in un correggismo con però le muscolari figure che ricordano appunto Michelangelo; il capolavoro della prima maturità, che è la deposizione che viene dalla cattedrale di Perugia; la Visitazione da Roma, l'opera appunto davanti alla quale Filippo Neri ebbe un'estasi mistica, restaurata per l'occasione da Laura Cipriani e Fabiola Iatta, e quindi un'opera del 1586 circa, e chiude la sala di istituzione dell'Eucaristia da Santa Maria sopra Minerva, messa in opera nel 1612, quindi pochissimo prima della morte del pittore. Quattro opere che raccontano quattro diverse fasi del pittore raccolte insieme per la prima volta. La sala successiva racconta le opere di devozione privata, quindi i quadri più piccoli di Barocci, e sono alcuni tra i capolavori della pittura sua, ma in generale della pittura del Cinquecento. Penso alla Madonna delle Ciliegie dal Vaticano, alla Madonna del Gatto dalla National Gallery, o gli struggenti notturni come la Natività dal Prado, il San Gerolamo dalla Galleria Borghese, il San Francesco dal Metropolitan, o l'elegantissimo Noni Metange dagli Uffizi, e un ragionamento del pittore con il tema del paesaggio. Segue una stanza che è un gabinetto dei disegni con capolavori che vengono veramente da tutte le raccolte grafiche del mondo, stupende le studi di teste dal Metropolitan, dal Louvre, dalle raccolte reali inglesi, dalla Fondazione Custodia, bozzetti di composizioni ancora dal Louvre o dagli Uffizi, bellissimi di studi anatomici di Berlino, del gabinetto dei disegni di Berlino. La quarta sala è dedicata invece al rapporto tra cartoni e opera finita, quindi quel percorso della composizione che studiamo su tre opere capitali, che sono sicuramente l'Annunciazione dai Musei Vaticani, opera realizzata per la Cappella della Rovere a Loreto, e poi dopo essere stata trafugata dai francesi torna in Italia e va a Roma in Pinacoteca, il magnifico Trasporto di Cristo al Sepolcro che viene dall'Oratorio della Croce di Senigallia, e che quindi va veramente ringraziato l'oratorio che ci ha permesso di portarlo in mostra, come tutte le opere che scendono dagli altari. D'altronde, un dipinto meraviglioso che è confrontato con i due bozzetti per le luci e per i colori, e lo straordinario confronto dell'unico dipinto a soggetto mitologico, storico di Barocci, quindi non religioso, che è la Fuga di Enea da Troia, con la tela che viene dalla Galleria Borghese, donata dal Della Rovere a Scipione Borghese, e il cartone preparatorio bellissimo, potentissimo, che viene dal Louvre. Io sono veramente riconoscente al Museo Francese per avercelo prestato. L'ultima sala è invece dedicata appunto alle sante statiche, a queste visioni in cui la pittura si sfalda, e quindi in questa unione tra il terrestre e il celeste che ci porta sicuramente verso le grandi innovazioni della pittura barocca, e anche alla straordinaria pala con la presentazione di Maria al Tempio, che viene dalla Chiesa Nuova, anch'essa restaurata per l'occasione, in cui questa scenografica scena teatrale che si svolge sulle scale, sullo scalone di Palazzo Ducale, ci riporta questa giovanissima Madonna in un turbine di colori, in un dipinto pieno di personaggi, con ad esempio il gruppo dei pastori in primo piano, con questa caprone che guarda verso lo spettatore con un occhio dolcissimo, e questi meravigliosi personaggi. Sei tu o nessuna. Uno uno dei brani che rappresenta veramente il passaggio dagli anni 50 agli anni 60, dal bop all'hard bop, con una presenza tra soul e swing e un blues costantemente ripreso in questo tema, che poi dalle improvvisazioni di Johnny Griffin viene evidenziato in maniera moderna, in maniera assolutamente strutturata, oltre che fantasiosa e di grandissimo gusto estetico. Paul Chambers al contrabbasso con tanto di archetto, in questo caso il disco The Congregation è secondo me il più bel disco di Johnny Griffin, ricordo edizioni Blue Note 1957. L'esposizione di un Federico Barocci, vi ho lasciato alla voce di Luigi Gallo, che ringrazio ancora una volta per questa piccola ma grande lezione di storia dell'arte in un periodo altrettanto di passaggio tra 500 e 600, e una Roma invidiosa, che hanno tentato artisti invidiosi di avvelenarlo. Questa non era una positiva invidia, no, assolutamente. Era l'invidia nell'accezione tipica, maligna. Concludiamo e saliamo al primo piano della sede espositiva Urbino, in quanto Urbino è già una sede espositiva, però il valore aggiunto da non perdere è questa esposizione. E quindi procediamo e poi ci salutiamo con questo speciale extended version della rubrica Regola d'arte dei 103.1. Dalla sala si sale poi al secondo piano, una sala dedicata al lavoro di Barocci per la chiesa di San Francesco, per i francescani, un tema chiave della carriera di Barocci, che era legatissimo ai francescani, con la meravigliosa stigmatizzazione di San Francesco della Galleria Nazionale delle Marche, uno dei più bei notturni della pittura moderna, e la sala successiva che racconta invece l'opera degli allievi di Barocci. La mostra prosegue anche fuori dal museo con alcuni affondi tematici nel Duomo, dove si conservano tre opere, tra le quali sicuramente L'ultima cena, un capolavoro assoluto, e nella chiesa di San Francesco il Perdono d'Assisi. Insomma, è una mostra che vuole raccontare di Barocci e lo vuole fare nella sua città, portando a compimento quella promessa avanzata nel 1913 da Lionello Venturi, che è il primo direttore di questo museo, che quando aprì la Galleria Nazionale delle Marche promise una mostra su Barocci che poi facciamo noi oggi. E quindi mi sembrava importante, in quest'anno in cui Urbino va ricordata, quest'anno come ogni anno, come una delle culle dell'arte italiana, dedicare un'attenzione importante al suo grande pittore Federico Barocci, Urbino. Grazie, e sarà fino al? Fino al 6 ottobre. Per cui abbiamo tutta l'estate, anche oltre, per poter... Sì, anche tutto agosto, tutto settembre, certo. Mi raccomando, vi aspetto, è una mostra da non perdere, da non perdere. E non lo dico perché l'ho fatta io, normalmente io sono sempre molto restio, ma perché Barocci è un pittore meraviglioso, e perché poter vedere le opere da vicino, le opere che scendono dall'altare, poterle vedere da vicino, ci si rende conto di che pittore è veramente commovente stato. Grazie per questa piccola ma grande lezione di storia dell'arte, per aver portato tutto ciò anche nella nostra città. Appuntamento ad Urbino allora, direttore. Grazie. A presto, grazie. Go ahead. true to you. No need to be ashamed. No, don't be afraid. It's all the ways of wanting, pleasing, loving in every way. I'm needing heaven to be with you. It's all the ways of wanting, pleasing, loving in every way. I'm needing heaven to be with you. Pretend you see with my eyes all the subtle things you do. Puntata dedicata alla splendida Urbino con un rappresentante in arte, Federico Barocci, Galleria Nazionale delle Marche. Sarà per tutta estate, anche tutto settembre, quindi veramente un'esposizione da non perdere. Grazie alla sede espositiva, grazie a Luigi Gallo, direttore della sede stessa e co-curatore dell'esposizione. Domani in scena, con appuntamento per quanto riguarda Piazza San Francesco nella serata di domenica, ne daremo anticipazione nella rubrica Casa Sipario sui 103.1, e venerdì e sabato invece con In mezzo scorre il fiume. Con noi ci sarà la direttrice artistica Luisa Cottifogli. Grazie per l'attenzione, vi auguro un buon giovedì. Abbiamo svalicato la metà settimana, ci attende il weekend, domani vigilia di weekend, per cui buona estate dal vostro William Piana, come un buon ascolto sui 103.1 alle super mattiniere e i super mattinieri. Appuntamento a domani alle ore 7 con la prima colazione in diretta, il Breakfast Club. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani. Pleasing, loving in every way.